E questa è la bella musica di Radio Stonata. Questo è Il Viaggio. Lui era Robin Figg con Nicki Minaj. E siamo ritornati nuovamente in diretta, 14:06. E ormai siamo già alla seconda puntata, quindi ne parlavo fuori onda col nostro Flavio Laggio di nonsoloturisti.it, che è ritornato a trovarci. Flavio, dove sei? Abbiamo perso Flavio. Flavio? Flavio? Abbiamo perso Flavio, ragazzi, è proprio bellissima sta cosa. Flavio? No, tutto in diretta, non sto scherzando, non riusciamo. Vediamo se... Allora, ci ascoltiamo un altro... Ah, ci sei, Flavio? Flavio? Non sentiamo Flavio, ragazzi. Eccoti! Vai, Flavio, ti stiamo ascoltando, dove sei? Oh, sono a Torino. Ah. Sono nel capoluogo piemontese, sono venuto qui a seguire un po' di fermento culturale. Torino purtroppo viene spesso adombrata, non ha fama di città di polo industriale, ha attirato per le generazioni i flussi migratori interni della nostra penisola e ne è venuta fuori anche una composizione comunitaria molto, molto variegata. Io scherzando dico sempre ai miei amici torinesi che parlano esattamente come i miei amici calabresi. Questa è bella, sì, perché effettivamente l'influsso di parlati, di accenti, ma anche di sapori, di reazioni. Guarda, è una cosa veramente impressionante. Me ne sono accorto quando, così, nei miei primi ingressi in questa città, quando ho cominciato a conoscere un po' più di gente, alcuni hanno veramente una parlata tale quale ai miei amici cosentini e di Reggio. Comunque la città ovviamente è molto più di questo, perché ovviamente non siamo qua a parlare, in una città innanzitutto. Il nostro Flavio è... Flavio? Oggi abbiamo un bel problema. E siamo a Torino, non è che siamo chissà in quel posto sperduto dell'Africa, eh? Siamo a Torino, però vediamo di recuperarlo. Quindi dico alla nostra regia se ci agevola un altro brano e recuperiamo Flavio Laggio di nonsoloturisti.it. Ci ascoltiamo? Sia! E noi ci riproviamo, ragazzi, ci colleghiamo con Torino e il nostro Flavio Laggio di nonsoloturisti.it. Flavio, non mi fare più brutti scherzi. Comincia a diventare imbarazzante. Finché eravamo in Africa potevamo almeno buttarla sulla carenza dei mezzi, ma adesso nella industriata Torino addirittura non riuscire a sentirci comincia a diventare preoccupante. Infatti. Comunque Beppe, sarò breve, così almeno quando mi cacciano dall'etere non ci siamo persi niente. A Torino in questi giorni c'è Torino Spiritualità, che è un importante convegno, un progetto del Circolo dei Lettori, che ha sede proprio qua a Torino e raccoglie appassionati, interessati, studiosi, oratori per incontrarsi e discutere del tema spiritualità a tutto tondo. Quindi non sono incontri di formazione ecclesiastica o di indottrinamento, ma sono proprio una grandissima panoramica su tutte le sfaccettature, su tutti i modi di vivere e di sentire la spiritualità al tempo d'oggi o al tempo che era. Giusto per darvi un'idea della centricità del progetto, ieri abbiamo assistito al convegno di Matthew Fox. Matthew Fox è un ex frate domenicano che è stato scomunicato e cacciato dal suo ordine proprio da Ratzinger quando era ancora Papa. Vescovo e da allora è rientrato nelle fila degli anglicani, della chiesa anglicana, per continuare la sua opera di incontro, di dialogo. Lui aveva fondato questo istituto incredibile in cui la gente di crescimento spirituale, in cui la gente poteva ricevere istruzioni da uno sciamano dei nativi americani, o a un'altra ora c'era invece il sufi musulmano, un'altra ora c'era il rabbino ebraico. Quindi un dialogo aperto e molto formativo di crescita personale e spirituale. Quindi insomma, Torino Spiritualità non è un discorso sulle chiese, sulle religioni, anche perché ne sono elementi importanti, ma è un discorso proprio sulla ricerca dell'uomo e sul nostro bisogno di sentirci parte di un mosaico, di un disegno più ampio, insomma, o comunque ciascuno di noi la voglia vedere. Quindi insomma, anche quello, per qualche giorno mi dedicherò al mio crescimento spirituale. L'evento si concluderà domenica dopo 4 giorni di rassegne che hanno visto, ad esempio, giusto per citare un nome, famoso anche Corrado Augias intervenire nel dibattito, ma i personaggi di spicco sono tantissimi, sono decine e decine di incontri sparsi in varie sede per la città, moltissimi sono gratuiti fortunatamente, alcuni sono, richiedono un piccolo contributo di 5 euro, una prenotazione. C'è stato un grande successo, infatti noi abbiamo rischiato due volte di rimanere fuori dall'evento anche ieri pomeriggio, perché la gente ha mostrato grande interesse, c'è grande partecipazione, grande disponibilità al dialogo e alla cultura anche in questa città, perciò è un bel evento che ci stiamo godendo da questa bella città. Infatti, Flavio, noi ci ascoltiamo un altro brano, così vediamo di farti spostare di nuovo. Ah, no, ci ascoltiamo un po' di buona pubblicità e poi un brano, però nel frattempo poi ci darai le ultime prima di salutarti appunto e di lasciarti ai tuoi impegni torinesi. Benissimo, a dopo. Lontano dagli occhi, lontano da me, Gianna Nannini qui su Radio Stonata, sempre vicini e lontani col nostro viaggio, e siamo ancora collegati col nostro Flavio lì a Torino. Ciao Flavio, ben ritrovato. Ciao Beppe. E quindi continua a raccontarci cosa stai facendo proprio lì a Torino, anzi fai un breve riassunto dei primi due interventi per chi si è appena collegato in radio e ci sta ascoltando. Sì, questi giorni sono qua a Torino per assistere agli eventi dedicati a Torino Spiritualità, un progetto del Circolo dei Lettori che raduna studiosi e esperti, professionisti, appassionati e curiosi per discutere e confrontarsi sul campo della spiritualità a tutto tondo, quindi trascendentale a ogni credo, religione e posizione personale. Però non è l'unica cosa bella che mi è capitato sotto gli occhi mentre ero qua a Torino in questi giorni. Un'altra iniziativa molto interessante che io ho apprezzato molto si chiama Passaggi nel Contemporaneo a Corti Aperte. Praticamente è cominciata a fine maggio e si offrirà ai visitatori fino al 10 di novembre. Praticamente hanno aperto corti anche di palazzi abitualmente chiusi al pubblico, quindi strani alla visitazione dei turisti, li hanno aperti per esporre al loro interno delle opere, delle installazioni artistiche di decine di artisti, mi sembra sono 22 artisti. Mm-hmm. E 35 opere sparse per tutta quanta la città, ma opere anche di un certo impatto emotivo, come io dico sempre, io di arte ne capisco più o meno quanto di astrofisica, però la capacità di alcuni giovani artisti che si sono esposti qui a Torino di turbare proprio l'equilibrio della percezione del tessuto urbano delle persone che vedono le loro opere è stata veramente azzeccata, ben riuscita. Tra i tanti palazzi appunto che hanno aperto le loro corti per queste opere, anche dei parchi in centro che offrono delle passeggiate non soltanto piacevoli e divertenti, ma anche un contatto inaspettato e molto insolito e molto originale con l'arte. Passaggi nel Contemporaneo a Corti Aperte fino al 10 novembre. Oh. Però visto che pure la panza bisogna... No, Flavio, scusa se ti interrompo. Flavio, scusa se ti interrompo. Però hai fatto un promo fantastico, Sì. Speriamo che abbiano apprezzato. Comunque non sono soltanto qua soltanto a nutrirmi spiritualmente e culturalmente. Oggi abbiamo fatto una passeggiata qui a quel di Porta Palazzo, dove ogni sabato mattina c'è il Balloon, uno dei mercati più grandi d'Europa, è veramente una passeggiata, un'esperienza anche per i visitatori di grande effetto, perché si colloca innanzitutto in uno dei quartieri più caratteristici di Torino, è un quartiere popolare ancora ricco di fascino e di storia che è appunto Porta Palazzo, e poi il mercato stesso espone veramente di tutto, si tratta di un mercato dell'usato, quindi vestiti, vecchi libri, incaglierie della bisnonna, mobili, vinili, proprio della bisnonna, quindi un inventario della curiosità umana, veramente. Sì, ma è proprio della bisnonna, ci sono anche le opere. Proprio no, della bisnonna. Poi sinceramente mi sono sempre incuriosito come facciano certi commercianti a procurarsi certe opere. Avranno un network di bisnonne a cui attingere. Comunque, a parte la bisnonna, è anche questa un'esperienza di Torino che consiglio, molto molto carina. Ok, Flavio, Quindi noi ci ritroviamo sabato prossimo da un altro punto del mondo, dell'Italia, non lo so, strada facendo vedremo. Prima di salutarci, come abbiamo fatto settimana scorsa, questa collaborazione con Il Viaggio, appunto il programma che state ascoltando, e non solo turisti, si estende anche alle ore 14.45 circa, dove ci sarà il nostro amico Luca, che ci spiegherai tutto tu di cosa, anzi lo introdurrai un po' a quello che ci racconterà, se vuoi, Flavio. Lo introduco soltanto brevemente, perché poi Luca, con la solita maestria di cui si contraddistingue, vi dirà nel dettaglio di cosa, quale esperienza vi porta. Luca Parisi Notto, in arte Luca Peri, il nostro apprezzatissimo collaboratore ormai da lungo tempo. Lui è originario di Caorle, una cittadina anche questa molto interessante sul litorale, perciò vi racconterà un'esperienza da davvero abitante del luogo, di chi la città lo conosce oltre la sua patina turistica e più evidente, più commercializzata. Ok, Flavio, io ti ringrazio ancora e ci sentiamo sabato prossimo. Grazie a te, Beppe, buon proseguimento, ciao a tutti. Ciao Flavio. 14